Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 cerca di ispirare a vivere, pensare e agire senza crudeltà. Siamo arrivati alla puntata numero 476 nella quale parleremo di benessere animale, degli sviluppi sul processo Italcarni di Ghedi, il cosiddetto macello degli orrori, di cercatori di alberi, di 4.000 volatili che hanno trovato la libertà. Il tutto condito da una ricetta che arriva dai boschi e da una scaletta musicale tutta da scoprire. Speriamo di avervi incuriositi. Apriamo la nostra puntata ricordando Vita, uno dei primi cani beagle ad essere salvati dall'allevamento di Montichiari, in provincia di Brescia, luogo dove i cani venivano allevati per la vivisezione. La foto di Vita, all'epoca una cucciola, che veniva passata sotto il filo spinato dalle mani degli attivisti il 28 aprile del 2012, era diventata il simbolo della protesta contro Green Hill e del clamoroso sequestro dei 2600 beagle dell'allevamento. Vita ora non c'è più. Una malattia se l'è portata via, ma fino alla fine è stata circondata dall'affetto della sua famiglia umana e non dalle terribili e fredde pareti di acciaio dei laboratori di sperimentazione animale. Torniamo nel bresciano per parlare dello scandalo del macello ex Italcarni che continua a fare i conti con la giustizia. Il Tribunale di Appello di Brescia infatti ha confermato la condanna per maltrattamento di animali a carico di uno dei due medici veterinari imputati. Per rinfrescarci un attimo alla memoria, ricordiamo che si tratta del cosiddetto scandalo degli animali a terra del macello degli orrori di Ghedi, appunto in provincia di Brescia. Qui gli animali arrivavano in gravi condizioni, non più in grado di reggersi sulle zampe e anziché essere macellati in allevamento come previsto dalle norme o sul camion, venivano scaricati e spinti con trattori e muletti, trascinati con catene e spinti ancora una volta con forconi, come a suo tempo avevano denunciato le drammatiche immagini pubblicate dal Fatto Quotidiano. La nuova pronuncia del Tribunale di Brescia, si legge nel comunicato stampa della LAV Lega Antivivisezione, conferma dunque la condanna in primo grado per uno dei due medici veterinari per maltrattamenti di animali e per falso, per aver omesso le visite agli animali prima della macellazione. Mentre per l'altro imputato viene confermata la condanna per minacce a un collega, fatti che hanno dato il via all'inchiesta. Pena fissata a 1 anno e 8 mesi per il veterinario colpevole dei reati di maltrattamento e falso e a 6 mesi per l'altro imputato condannato per minacce. Quello di Italcarni è il primo processo in cui videocamere nascoste che hanno documentato settimane di sevizie alle mucche vengono posizionate in un macello a opera di una procura. Ci chiediamo però se anche tutti i macelli avessero le telecamere e se tutte le norme del cosiddetto benessere animale venissero rispettate, se questo non contribuisca a lungo termine ad appiattire o anestetizzare la coscienza dell'opinione pubblica, allontanandosi così sempre più dal vero dibattito sulla questione dello sfruttamento tout court dei corpi animali. Anche IKEA si preoccupa del benessere animale. Ebbene sì, al colosso svedese specializzato nella vendita di mobili sta a cuore il benessere dei polli d'allevamento. Di che si tratta esattamente? La divisione europea di IKEA implementerà un piano d'azione mirato alla riduzione della sofferenza dei polli d'allevamento entro il 2025. Il piano, lanciato da IKEA Europe, si chiama Better Chicken Commitment, ed è il primo dei progetti istituiti dal gigante dell'arredamento per implementare azioni concrete all'interno della filiera di approvvigionamento di IKEA Food, che è la divisione che si occupa della ristorazione all'interno dei negozi in tutta Europa. IKEA si unisce così a Nestlé, Unilever e tante altre aziende nell'impegno a migliorare le condizioni dei polli negli allevamenti di tutta Europa. Decisione accolta con soddisfazione anche da Animal Equality. Le richieste delle organizzazioni, si legge sul sito dell'associazione, sono orientate ad una tutela maggiore dei polli, gli animali più sfruttati al mondo in termini assoluti, e toccano tematiche importanti come l'utilizzo di razze con migliori indicatori di benessere, una minore densità di allevamento, l'accesso alla luce naturale e diversi arricchimenti ambientali all'interno delle strutture. Queste misure saranno controllate da un ente di certificazione esterno, continua Animal Equality, e nel caso di IKEA Europe la loro implementazione sarà comunicata annualmente sul sito aziendale. Insomma, diventa via via più chiaro come sia il tema del benessere animale a tenere banco nelle trattative tra aziende e associazioni animaliste. Vedi anche l'ultima campagna End the Age Cage, l'iniziativa dei cittadini europei per porre fine all'uso delle gabbie negli allevamenti di tutta Europa e per un allevamento più rispettoso del benessere degli animali. Strategie forse discutibili se si parla di liberazione animale, perché si chiedono gabbie più grandi o arricchimenti ambientali, ma forse anche comprensibili se viste nella prospettiva dell'animale che qui e ora si ritrova confinato in allevamenti e macelli. Un dilemma che pare non avere soluzioni a portata di mano. Tuttavia, rafforzare le rivendicazioni politicizzando il messaggio potrebbe essere una strada giusta da percorrere. La scelta delle vie brevi rischia altrimenti di depotenziare irrimediabilmente una battaglia cruciale per il ripensamento di tutta la struttura sociale. Torniamo a parlare di alberi e oggi lo facciamo con uno scrittore che probabilmente non amerebbe essere definito scrittore di libri sugli alberi. Parliamo di Tiziano Fratus, autore del successo editoriale Il Bosco è un Mondo. Tiziano Fratus ha fatto del suo rapporto con il bosco e con i suoi abitanti arborei il fulcro del suo percorso di scrittore, nonché un perno della sua esistenza. Scopriamone di più con il servizio di Lorenzo Guadagnucci. Tiziano Flatus è stato definito un cercatore di alberi, una definizione che lui accetta, ma che in fondo gli sta stretta. È vero, certo, che cerca gli alberi, ma la sua relazione con le piante è il mezzo per produrre pensiero, poesia, consapevolezza, grazie al rapporto con esseri viventi, la cui presenza, tanto trascurata, è imprescindibile per gli esseri umani. Nel corso del tempo, attraverso i suoi libri, i suoi versi, i suoi articoli, Flatus ha messo a punto, in un processo ancora in corso, una nuova disciplina che ha chiamato dendrosofia, ossia la conoscenza e i saperi che scaturiscono dalla relazione con gli alberi. Dalla scienza alla filosofia, dalla storia alla botanica, la dendrosofia è interdisciplinare e aperta ai più diversi contributi. Tutto, ovviamente, con gli alberi al centro. Una presenza possente, di lunga durata, proiettata nel futuro. Tiziano, che cos'è un cercatore d'alberi e qual è la sua prospettiva? Un cercatore d'alberi è una persona che innanzitutto ama la natura, che trova affascinante le forme, le dimensioni, le caratteristiche di alcuni esseri viventi che sono questi grandi alberi, grandi o vecchi o vetusti alberi, che ogni tanto si presentano negli ambienti naturali, nei boschi, piuttosto che nei giardini, delle città, negli orti botanici, nei parchi delle ville cosiddette storiche e in altri luoghi ancora, quindi nel paesaggio, nel suo complesso. E quindi un cercatore d'alberi dedica una parte del proprio tempo proprio ad andare a visitare, a incontrare e a ammirare questi testimoni del tempo. Tu hai anche iniziato questa disciplina, la dendrosofia, una parola che tu stesso hai inventato, il filosofare, il pensare, il conoscere attorno agli alberi. Può essere vista questa disciplina come una prospettiva che supera la centralità dell'umano, l'antropocentrismo, collocare l'uomo al centro di tutto? Ma in realtà no, per il semplice fatto che comunque la dendrosofia ha due poli. Da una parte c'è l'albero, dall'altra parte c'è l'uomo, quindi è comunque a andar bene un dialogo fra queste due entità. E parte soprattutto comunque dal fatto che alcune persone, alcuni umani, hanno il piacere di poter attraversare il paesaggio, di poter contemplare, poi magari difendere, proteggere, valorizzare in qualche maniera, o far conoscere la presenza e le caratteristiche di questi grandi signori. Dei nostri alberi, però l'uomo rimane almeno compresente. L'idea di una cultura che non sia antropocentrica è giusta, oggi si cerca molto di perseguirla, però è figlia anche secondo me di un'ulteriore disattenzione, nel senso che non ci può essere una cultura per quella che per noi è la cultura, dove l'uomo comunque non sia almeno co-protagonista, proprio perché la cultura la creiamo noi con le parole, con i pensieri, siamo noi che scriviamo i libri. Poi gli alberi per noi possono essere le creature più importanti che ci sono, per tanti valori, tante importanti considerazioni. Però siamo sempre uomini che scrivono, che parlano, che vanno incontro, che proteggono gli alberi. In questa tua ricerca sei anche un frequentatore ovviamente di boschi e di certo. Ambienti lontani anche dalla dimensione urbana. Hanno avuto un ruolo gli animali selvatici? Non ce l'hanno avuto? Potrebbero averci? Fanno parte della tanta bellezza che uno può così gustare mentre attraversa una riserva naturale, soprattutto in certi luoghi come i boschi che si possono incontrare ovviamente sulle montagne, nelle riserve. Ovviamente in questi luoghi la presenza dell'animale cosiddetto selvatico è rinvigorente, è straordinaria, sono incontri che rendono quegli ambienti, il fascino di quegli ambienti, l'unicità di quegli ambienti ancora più interessante, più ricca. Fratus è autore di numerosi libri, l'ultimo in ordine di tempo è Poesie creaturali, pubblicato dall'editore Libreria della Natura, una raccolta di versi dedicati agli alberi. Ai boschi, la ricetta di oggi è curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sembra un incanto il bosco sotto la luna. Favole appassionate narra per te. Vieni, c'è una strada nel bosco. Reduce dall'ultimo evento organizzato a Firenze dalla redazione di Restiamo Animali, vi propongo uno dei piatti che ha riscosso maggior successo. Un risotto che vede tra i suoi ingredienti le bacche di rosa canina, un regalo del bosco che darà una nota acida, quasi agrumata, ad un risotto molto originale. Gli ingredienti per 4 persone per il risotto in crema di nocciole e rosa canina con gocce di miele vegan e stagionato vegetale sono 320 g di riso carnaroli, 10 bacche di rosa canina, del brodo vegetale, 50 g di nocciole tostate, 3 scalogni o cipolle bionde, 1 spicchio di aglio, del prezzemolo, 100 g di pomodori secchi, 400 g di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe, mezzo bicchiere di latte di soia, formaggio vegetale tipo stagionato e un cucchiaio di sciroppo di riso o di agave. Fate reidratare i pomodori secchi in un bicchiere di brodo vegetale caldo. Sbucciate 2 scalogni e affettateli. Fate scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Scolate i pomodori secchi conservando il brodo vegetale. Unite i pomodori allo scalogno e fate rosolare qualche minuto. Quindi aggiungete la passata di pomodoro e il bicchiere di brodo. Aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare fino ad ottenere una salsa molto densa. A parte, fate bollire le bacche di rosa canina in mezzo litro di acqua fino a quando si saranno ben ammorbidite. Scolatele, conservando la tisana, e passate con un passaverdure e successivamente ad un colino a tramafitta per togliere tutti i semi. Unite il passato di rosa canina alla salsa di pomodoro concentrata. Aggiungete le nocciole tostate e con un frullatore ad immersione riducete il tutto a crema. A parte, tritate l'altro scalogno, fatelo scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Unite il riso e lasciate tostare, quindi bagnate col vino bianco e lasciate sfumare. Quindi portate a cottura con la tisana di rosa canina e, se necessario, del brodo vegetale. A fine cottura unite la crema e mantecate con il latte di soia emulsionato con 2 cucchiai di olio extravergine. Servite con del prezzemolo tritato finemente, qualche scaglia di stagionato vegetale e poche gocce di sciroppo di riso. Le tartarughe sono considerate animali portafortuna, rappresentano la longevità, la saggezza, specialmente nelle culture orientali. La simbologia però non esenta questi esseri dall'essere sfruttati e commerciati illegalmente. Di recente all'aeroporto di Manila, nelle Filippine, sono state rinvenute ben 4 valigie che contenevano 1529 tartarughe vive di specie rare e protette, che erano state legate con scotch da pacchi. Arrivavano da Hong Kong. Il valore stimato di questi animali era di circa 80.000 euro. Nel 2011, nell'album dei nuovi animali di Manuel Bongiorni con il progetto Musica per Bambini, affida a Caparezza il compito di dare voce a una surreale tartaruga. La canzone si chiama Tartarugola. Signore e signori, modificatori, grazie dei miracoli sonori. Ora nella bocca un'ugola da uomo. Canto e parlo al mondo un po' di me. Tartarugola, bocca favola. Dove mi tagliare? Tartarugola, tartarugola. Eri solo un animale bisecolare. Animale da migliorare. Animale che vuole il sole. Storia dalla preistoria fino ad ora poco elocutoria, ma ora che dotato sono di parola, già pendete voi dalla mia gola. Vano generato per cantare lenti, ora io vi regolo le menti, odi la mia voce, fa come ti dice, portami del cibo in superficie. Tanta rumora, porca favola. Presidenti, quella tre mutande, quelle senza denti, l'altra degli ambigui precedenti. Utilizzare la carne del più grande mammifero del pianeta per farne cibo per gli animali domestici. Non è una provocazione, ma l'incredibile proposta del governo del Botswana per risolvere il problema del sovrannumero degli elefanti. Il Botswana, prendiamo da un articolo apparso sul blog 24 Zampe, sta pensando di togliere il bando sulla caccia agli elefanti che durava da 4 anni, introducendo la caccia selettiva e perfino l'uso alimentare della loro carne per farne cibo in scatola per animali. La raccomandazione si basa sui dati della popolazione di elefanti del Botswana, stimata in circa 130.000 individui, considerata dagli esperti eccessiva per l'ecosistema e pericolosa per la convivenza con l'uomo. Raccomandazioni che però cozzano con l'opinione di altri esperti, secondo i quali i 4 anni di moratoria sulla caccia, decisa nel 2014 dall'allora presidente Ian Khama, e la conseguente crescita della popolazione di pachidermi selvatici ha accompagnato la crescita del turismo nel paese dell'Africa meridionale. Una ripresa della caccia selettiva, secondo questi esperti, danneggerebbe la reputazione del Botswana come paese che si preoccupa per l'ambiente e potrebbe comportare un danno al settore turistico, che è la seconda voce del reddito del Botswana dopo l'estrazione di diamanti. Alla notizia della fine del bando della caccia agli elefanti, allo sdegno dell'opinione pubblica, si affianca la critica alla scellerata proposta del Botswana dell'Environmental Investigation Agency, l'agenzia investigativa per l'ambiente, che dichiara: Da leader mondiale della conservazione è diventato un paese che fa la politica dello struzzo, nascondendo la testa sotto la sabbia e finge di non vedere la gravità della situazione riguardo al bracconaggio. Lo spettro del bracconaggio infatti è tutt'altro che lontano, come dimostrano i risultati del censimento condotto tra luglio e ottobre 2018 da Elephant Without Borders e il Department of Wildlife and National Parks del Botswana, dove si rileva che il numero degli elefanti illegalmente abbattuti ha superato di gran lunga quello degli anni precedenti. Il presidente Masisi ha comunque promesso che la proposta sarà di nuovo sottoposta alla società civile e agli operatori prima di proporla in Parlamento. Seguiremo gli aggiornamenti e vi terremo informati. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Vogliamo segnalarvi due good news che ogni tanto fanno bene, che riguardano la liberazione di più di 4.000 volatili. Siamo in provincia di Forlì Cesena e parliamo di una maxi operazione dove 2.000 uccelli, tra cui tordi, cesene, merli e allodole, sono stati tolti alle mani di chi li deteneva illegalmente e 5 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria. Un risultato straordinario, si legge sul sito della LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, e di una grande operazione dei carabinieri forestali in collaborazione con gli ornitologi dell'associazione, a seguito dei controlli negli allevamenti di animali selvatici della provincia di Forlì Cesena. Il video della liberazione di questi animali è tutto da vedere. Altri 2.000 volatili, poi precisamente parliamo di quaglie, hanno visto la libertà grazie a un'operazione di tutt'altra impostazione. Siamo ancora a Brescia, a pochi chilometri dal confine col Cremonese, dove ignoti, si legge sul quotidiano online Crema Oggi, si sono scatenati contro la riserva di caccia a Boccasserio Giardino, distruggendo tutto e liberando gli animali custoditi nelle gabbie. Si sono introdotti nell'azienda agricola, continua l'articolo, scassinando il cancello d'ingresso e portando via 2.000 quaglie da volo, destinate all'attività venatoria. Che dire, buon volo libero a tutti! Saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 477 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.